questo discorso segnale, fulmine anche quello eventualmente, però non è così, il segnale è così, in questo modo. Si chiama di venire la radio, se cambia, ecco adesso ho rimesso come la prima, se cambia la radio. La radio è bellissima, rimane però questo segnale, da 9 di Cipa, da qua abbiamo 30, è modulato giù. Non so come ti sto orientando io, contraccambia il QRK, guardate. La radio è 5. Il segnale non può suonare, perché stiamo cercando quello, stiamo cercando il primo che avevo dallo smitter, perché questo barattino, lo smitter è molto ma molto avaro, e infatti lo stavo spiegando anche a Gianni dall'altra parte, lo stavo spiegando a Gianni di Lanitti, capito? E ma non riesco a vedere il coso, non lo leggo, c'è come che c'è un gruppino di fili sotto, ci sarà qualcosa che io non riesco a vedere, a individuare. Paziente, lo lascio così com'è, e il segnale è basso comunque, sentiamo 5. Ok, già va bene. Ok, Gianni, come mi ascolti tu? Thank you. Calli, no, grazie, ti porto le due, un attimino. Non vendere nulla, perché se no

affitto così senza fare niente, a 100 gente sicuramente, ma tu diciamo, non è nelle migliori, stavo parlando, perché loro erano piccoli, sono 18 anni compie, e niente, io non è che sono molto all'inistichezza, cioè, è stato battagliando lì finché tu sono riuscito a... a scriverlo su Facebook e queste molte cose, io credo, e si è passata la poi la nottata lì e non sono più entrato, c'era Gianni, la sera Claudio e altri amici, io so, quando sento mi faccio sempre, anzi poi chiederò anche scusa per, diciamo, per la sera, ma perché poi non sai come, da una cosa da niente, io ho detto non sono molto pratico, un galito la trovo, fai, io ho dovuto chiamare l'altro mio figlio al telefono, detta così, detta cosa, perché ci siamo usciti, poi stavo acciappando con lui mio figlio e niente, sono passati un bel po' di ore, quando sono salito avevano già chiuso. Sembra un'ovazione a Nino che ho detto buonasera e allora io sono più di 90.